I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È partito formalmente il piano Juncker, con cui la nuova Europa vuole dare un segnale forte di riattivazione dell'economia e degli investimenti. In realtà, come si è detto fin dall'inizio, questo piano è ancora poca cosa, 315 miliardi, mobilitati in realtà grazie a 5 miliardi messi in campo direttamente dalla BEI e altri 16 coperti con garanzie europee dirette e fondi preesistenti per 8 miliardi. Ciò significa che il piano Juncker fa conto su un effetto leva molto ambizioso, cioè di 15 volte. Naturalmente l'Europa intende finanziare opere legate a settori strategici quali trasporti, energia, ricerca, istruzione. L'Italia ha già presentato una lista di progetti per un corrispettivo sul triennio di 80 miliardi e ha già fatto sapere però che la Cassa Depositi e Prestiti parteciperà all'operazione con 8 miliardi, che da una parte, vista l'esiguità dei fondi UE, non è poca cosa, ma certo è molto meno rispetto agli 80 previsti dal maxi piano del governo Renzi. Non sarebbe serio, ad esempio, che per quella via l'Italia, come sembrava in un primo momento, volesse finanziare la stabilizzazione dei precari della scuola. Non verrebbe certo accettato da Bruxelles, del resto non è questo il tipo di investimenti approvati ieri dall'Ecofin, che invece pensa a piani più strategici anche nel settore scolastico, come il potenziamento dell'edilizia o a investimenti nell'acquisto delle tecnologie per modernizzare la didattica, cosa a cui per la verità guarda comunque anche il piano italiano. Saranno importanti invece gli investimenti nel potenziamento della banda larga e delle reti in generale, tra cui quella ferroviaria, per la quale il piano Juncker guarderà con riguardo soprattutto al rifinanziamento della tratta Torino-Lione e a opere strategiche come quella del tunnel del Brennero. Naturalmente il governo ha presentato anche progetti di riqualificazione urbana in diverse città per rilanciare l'edilizia e per quella via per dare un colpo di acceleratore a tutta la manifattura, ma è molto probabile che alla fine, dovendo passare da 80 a 8 miliardi, saranno molti i sogni che verranno sacrificati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Da 3 giorni la Banca Centrale Europea ha avviato il maxi piano di acquisto di titoli di Stato e altre obbligazioni e il presidente della Banca Centrale Mario Draghi oggi ha per la prima volta sottolineato pubblicamente gli effetti positivi di questa operazione. Un'operazione complessa che va sotto il nome di quantitative easing, ovvero l'immissione di enormi quantità di moneta nei paesi dell'area euro, 60 miliardi al mese per poco meno di 2 anni attraverso appunto l'acquisto di bond pubblici e privati. Per Draghi quindi il piano di acquisti della BCE sta funzionando, in effetti basta guardare i mercati per coglierne l'efficacia almeno finora, con l'euro che continua a svalutarsi verso il dollaro e i rendimenti dei titoli di Stato che sono al minimo storico nonostante i nuovi timori per la crisi greca. Non è azzardato dire che la politica monetaria della BCE possa contribuire effettivamente a sostenere la ripresa dei paesi dell'area euro. È un approccio che è condiviso anche dal nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che vede le chance per una ripresa economica più ampia e più solida, alla sola condizione che, ha ribadito ieri il ministro, che in questo clima favorevole non si perda l'ennesima occasione per spingere l'acceleratore sugli investimenti e attuare rapidamente le riforme strutturali sulle quali ci siamo impegnati con l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.